555. Fegatelli in conserva. Tutti sanno fare i fegatelli di maiale conditi con olio, pepe e sale, involtati nella rete e cotti in gratella, allo spiede o in una teglia. Ma molti non sapranno che si possono conservare per qualche mese, come si pratica nella campagna aretina e forse anche altrove, ponendoli, dopo cotti, in un tegame e riempiendo questo di lardo strutto e a bollore. Si levano poi via via che se ne vuol far uso e si riscaldano. È una cosa che può far comodo a chi sala il maiale in casa, perché si avranno allora meno frattaglie da consumare. Alcuni usano cuocere i fegatelli fra due foglie di alloro, oppure, come in Toscana, di aggiungere al condimento un po' di seme di finocchio, ma sono odori acuti che molti stomachi non tollerano e tornano a gola.